Era l'alba quando, con gli scaffali e i cassetti vuoti, i bauli ripieni e le casse zeppe di libri, Talento coraggioso recuperò la piccola valigia di cuoio da sotto il letto a baldacchino, dove solo la scopa della padrona di casa l'aveva raggiunta, dal giorno in cui era giunto a Yale 6 anni prima. Lì mise gli indumenti che gli sarebbero serviti durante il viaggio e poi, con molta cura, i suoi oggetti più preziosi. L'avevano accompagnato da un albergo all'altro, da Atene a Parigi, a Londra, ovunque era andato durante i 12 mesi dell'obbligatorio giro d'Europa e infine a New Haven. Per prima cosa, avvolgendoli nella seta, mise sul lato sinistro della valigia i 4 tesori della letteratura: gli spessi pennelli di peli di volpe, il loro supporto di giada, la pietra piatta intagliata a forma di foglia di loto su cui veniva preparato l'inchiostro e le tavolette di inchiostro tanto preziose per suo padre. Poi, fra 2 vesti, la foto della famiglia. La foto era stata fatta appena prima della sua partenza. 3 generazioni, 54 membri del clan. Al centro sua madre e suo padre, seduti impettiti sulle sedie di palissandro, ai loro piedi, lontana dal posto che le spettava fra i bambini, la prediletta del venerabile, luna di primavera. Infine, prese dal comodino la scatola a scomparti. I rami del cipresso, disegnati sul coperchio in fili di rame e colorati in blu maomettano, erano lucenti come dovevano esserlo il giorno in cui l'imperatore Wan Li aveva donato la scacchiera all'originario patriarca della casa dei Chang, finché non l'aveva ricevuta dal venerabile vecchio il giorno del suo 30° anniversario. Di tanto in tanto si era chiesto se suo padre avrebbe veramente scelto il suo figlio maggiore come successore. Talvolta, nei 300 anni registrati nel libro del clan, un nipote era stato ritenuto più degno di un figlio. Aprì la scatola e sfiorò i caratteri incisi nello stile dei tamburi di pietra sugli spessi dischi di avorio. Fante, cavallo, cannone, ministro, generale, re. Gli bastava toccarli per riconoscerli. Una volta ancora sorrise, ricordando una certa festività di metà autunno, quando suo padre era tornato dopo diversi anni d'assenza nella capitale. Lui aveva 20 anni, il secondo fratello 17, e il patriarca aveva annunciato che si sarebbe tenuto un torneo di scacchi dopo il banchetto della Lepre di Luna. Ed entrambi i figli, volendo fare buona impressione sul padre, erano scivolati via dai festeggiamenti per esercitarsi nel giardino degli scacchi. Il terzo fratello, ansioso anche lui di mettersi in mostra, li aveva seguiti, benché i suoi 3 codini sulla testa rasa arrivassero appena al piano del tavolo e non capisse le mosse. Improvvisamente, dal cancello di bambù era apparso il padre, splendente in una veste violetta con ricamate sopra gru in volo. I giocatori erano scattati in piedi. Il ragazzo aveva fatto per fuggire. «Resta!» aveva ordinato il padre, severo ma con gli occhi che ridevano. Talento Nobile si era fermato di botto, si era girato a guardare e al cenno di assenso del patriarca era tornato indietro, chinandosi 3 volte con i codini oscillanti. «Riprendete a giocare», aveva ordinato il padre, ma loro non avevano osato sedersi finché lui non aveva fatto cenno di riprendere posto. Aveva osservato in silenzio alcune mosse, poi aveva dichiarato: «Talento coraggioso, non lasciarti affascinare troppo dal gioco in se stesso, ricorda il fine». Talento sincero, smettila di imparare a memoria tutte le possibili mosse dai libri e gioca di più. Talento nobile, ricorda che l'attacco più efficace non è sempre quello diretto, sii più astuto. Poi si era girato, passando così rapidamente dal cancello della foglia di acero che i suoi 3 figli non avevano avuto il tempo di rispondere. Il venerabile non li aveva mai visti giocare prima. Quanti ricordi! Talento coraggioso chiuse delicatamente la scatola e avvolgendola in un morbido lino la mise nella valigia. Suo padre sarebbe ancora riuscito a identificare ciascun pezzo a occhi chiusi? O l'età avrebbe reso insensibili le sue dita prima che morisse? La domanda non avrebbe mai trovato risposta. La partita che aveva sognato non sarebbe mai stata giocata. Una settimana dopo, a San Francisco, il nuovo patriarca della casa dei Chang salì a bordo del piroscafo di Sua Maestà il City of Peking, rotta Shanghai. Il commissario di bordo, un inglese grassoccio e rubicondo, lo salutò cortesemente, pur non riuscendo del tutto a nascondere il suo sgomento nel trovare un orientale fra i passeggeri di prima classe e il suo sollievo quando Talento coraggioso accennò che non avrebbe consumato i pasti con gli altri. con esagerata cortesia chiamò uno degli steward cantonesi pronti ad accorrere, i codini infilati dentro le tasche delle giacche bianche inamidate. Accompagna Mr. Chang al numero 8, sta a sua completa disposizione. Talento coraggioso rimase a guardare fuori dall'oblò mentre lo steward si affannava a passare la mano guantata sopra i mobili di legno, mettendosi in tasca un bocciolo di rosa appassito, raddrizzando un cuscino, sistemando la piccola valigia di cuoio su un mobiletto, aprendo le tendine che nascondevano lo spogliatoio e il bagno. La piccola nebbia del mattino che aveva avviluppato la città si era alzata e il sole, sospeso sulle colline al di là della baia, sembrava una gigantesca moneta d'oro. Improvvisamente desiderò di aver avuto più tempo. Questa era la sua prima visita a San Francisco. Ora non l'avrebbe mai conosciuta. Quando avrebbe potuto viaggiare di nuovo a suo piacere, libero dalle imposizioni della dottrina confuciana e dalle responsabilità del clan? Fra 40 anni? Curvo, con una lunga barba bianca, avrebbe forse trascorso i suoi giorni come un eremita, vagando attraverso le montagne avvolte nella bruma, secondo l'ideale taoista? Il venerabile non era mai stato libero. Suo figlio aveva avuto 7 anni per sé. Forse una libertà troppo grande per qualsiasi uomo. Gli sarebbero occorsi quei 49 giorni, ora solo 36, per ridiventare cinese. Padrone, c'è stato un errore. Qui c'è solo una valigia. Se mi date i vostri scontrini per i bagagli, provvederò immediatamente a recuperare le altre. Talento coraggioso si voltò. Non c'è nessun errore. Tutto quel che mi occorre per il viaggio è in quella valigia. Il resto può stare nella stiva. Oh, spero siate soddisfatto della vostra sistemazione, signore. Sì, certo, annuì, notando per la prima volta l'interno della cabina. Ma avrò bisogno di un ampio tavolo rettangolare al posto di quel tavolino. Me ne puoi trovare uno? Certo. All'alba ci sarà qualcuno sul ponte? No, signore, solo lo stalliere che tiene in esercizio i cavalli del Lord inglese. E la guardia. Farò una passeggiata ogni mattina, ritornando in questa cabina alle 6. Ti prego di portarmi qui la colazione a quell'ora. Consumerò qui anche il pasto di mezzogiorno, il tè delle 4 e la cena delle 7. Per il resto del tempo desidero non essere disturbato. I menù? Oh, non importa. Riso, verdure fresche in salamoia e frutta, niente vino. Se questo è tutto, provvederò io. Lo steward si inchinò e chiuse silenziosamente la porta della cabina dietro di sé. Talento coraggioso aprì la valigia e ne estrasse una lunga veste di seta beige. Si tolse in fretta la giacca, il panciotto, i pantaloni, la camicia inamidata da occidentale. Mentre si allacciava l'ultimo bottone della tunica, qualcuno bussò alla porta. Entrate! Lo steward apparve. Il vostro tavolo, signore. Mentre questo veniva sistemato, Talento coraggioso si lavò e quando ritornò nella camera era solo. Prese un rotolo di carta bianca di riso dalla valigia e lo dispose sul tavolo in modo che la parte eccedente finisse per terra. Poi prese i 4 tesori e li collocò accanto al foglio sulla sinistra. Arrotolatosi le maniche fluenti, versò dalla caraffa che si trovava sul comodino dell'acqua nel bicchiere. Con precauzione portò il bicchiere sul tavolo e versò un po' d'acqua nella pietra calamaio, una goccia dopo l'altra, poiché doveva rispettare la giusta quantità. Assumendo l'atteggiamento corretto, prese il pennello nella destra, la tavoletta d'inchiostro nella sinistra e per scacciare pensieri strani chiusi gli occhi, respirò a fondo. E ora doveva cominciare. Sfregò la tavoletta sulla pietra calamaio finché lo scintillante liquido nero ebbe la giusta consistenza. Poi intinse il pennello nell'inchiostro, tracciando qualche segno sulla pietra finché fu soddisfatto. Impugnando saldamente il pennello, si fermò, il braccio proteso sopra il foglio. Puntini neri macchiarono il foglio pulito. La sua mano tremava. Naturale. Da quanto tempo? Non esercitava più le arti antiche, non ricordava, aveva avuto tempo solo per i nuovi studi, gli erano sembrati così importanti. Nelle sue lettere a casa aveva regolarmente riferito dei suoi progressi nella matematica e nelle scienze fisiche, oltre che dei suoi studi di filosofia occidentale, che in verità preferiva alla fisica e alla tecnica, ma mai aveva fatto parola delle sue crescenti apprensioni. Più imparava, meno osava confidarsi con suo padre. Come poteva far capire al venerabile che le macchine, oggetto dei suoi studi, erano soltanto un fenomeno della potenza straniera, non la sua fonte? Le radici affondavano nel pensiero occidentale in un sistema di vita infinitamente più alieno di quanto non lo fossero ferrovie e macchine mietitrici e infinitamente più difficile da assimilare per un cinese. Ora, se non altro, non avrebbe dovuto affrontare il discorso. Improvvisamente si lanciò sul foglio dipingendo le parole col pennello, parole che aveva tracciato per la prima volta da ragazzo sotto l'occhio vigile del padre. Ancora una volta e un'altra ancora ripeté i tratti na e pie e cu. La gamba di pecora, la linea verticale con la sua goccia di rugiada, il becco dell'aquila, l'uncino simile a una coda di drago. Quando la nave salpò, lui non se ne accorse. Dopo un viaggio di 32 giorni, a mezzogiorno del secondo giorno della quindicina della fine del tempo caldo, il CTO Peking gettò l'ancora nelle acque profonde oltre l'estuario del Whampoa. Nel giro di un'ora i suoi passeggeri erano saliti sul più leggero Qiangyung, che doveva trasportarli per le 12 miglia fino a Shanghai. Quel mattino, Talento coraggioso si era vestito con cura, indossando una veste grigio tortora, restando diversi minuti davanti allo specchio. Fino a rassicurarsi che nulla del suo eccitamento, l'eccitamento di un cinese che tornava a casa, trapelasse. E se l'ansia lo aveva spinto a prua della chiatta, come nella speranza di giungere a casa più in fretta, il suo comportamento era imperturbabile e le sue lunghe dita affusolate sfioravano appena il parapetto, come si addice a un uomo di Shuqiao. Il fiume Whampoa era come il giorno in cui era partito, fermo come ora a prua. Gli stessi lorcià, vapori, rimorchiatori, sampan e giunche, molti con occhi enormi dipinti sopra a difesa dei demoni del fiume, si affannavano in una cacofonia di sirene, fischi e corni. A bordo dei sampan, donne a piedi nudi erano rannicchiate accanto a stufe a carbone, mentre bambini dai grembiuli a colori vivaci, con zucche svuotate o blocchi di legno legati al corpicino nel caso cadessero in acqua, riempivano o vuotavano dei secchi. Gabbiani e uomini vestiti di stracci e armati di reti si contendevano i rifiuti gettati dai piroscafi stranieri. Davanti, molto vicina ora, c'era Shanghai, l'orizzonte più simile a quello di Londra che a quello del Katai. Dalle aste che bordavano la banchina sventolavano il tricolore francese e la Union Jack britannica, non il drago imperiale. E sugli ampi viali del settore inglese egli poteva vedere gli alti Sikh bronzei dai turbanti rossi che dirigevano il traffico. La barca accostò dolcemente al molo mentre venivano fissate le cime. Spostandosi verso la passerella, Talento Coraggioso aspettava pazientemente chiunque fosse venuto a prenderlo, mentre gli altri passeggeri si affannavano a raccogliere bagagli e bambini, scambiandosi saluti e dandosi gomitate l'un l'altro per rivesciarsi a terra. Alla sua sinistra, un gruppo di rumorosi marinai americani urlava e fischiava alla gente del molo. Quando uno di loro si curvò pericolosamente dal parapetto, i suoi amici lo afferrarono per i piedi, fingendo di gettarlo fuori bordo, con grande divertimento dei presenti. Talento Coraggioso scosse la testa. Gli americani erano come bambini, cordiali e giocherelloni. Gli uomini davano la mano agli stranieri per salutarli, le donne chiacchieravano e andavano a cena con uomini mai visti prima d'allora, i bambini gettavano palle di neve agli adulti, non importa di che posizione sociale. Gli sarebbero mancati. Eppure non si era mai del tutto sentito a suo agio con loro. Non come si sentiva, per esempio, col suo giovane amico Felice Promessa, quando, seduti uno davanti all'altro, giocavano a scacchi senza dirsi una parola. Era trascorso appena un anno da quando il venerabile gli aveva scritto che Felice Promessa era in viaggio verso New Haven per iniziare i suoi studi a Yale, chiedendogli di essere come un fratello maggiore per il figlio del mio vecchio collega. Il compito non gli era riuscito difficile. Il giovane aveva un fascino spensierato e disinvolto che sembrava essere complementare al suo naturale riserbo. Era entusiasta del mondo occidentale, persino di quella spaventosa attività chiamata sport, e col passare dei mesi aveva sviluppato un ottimismo quasi romantico riguardo al futuro. Molto inconsueto, ma in un uomo della sua età, gradevole. Talento coraggioso sorrise amaramente fra sé, l'unico vero amico che si fosse fatto durante tutti quegli anni all'estero, un cinese. Padrone, padrone! La voce dietro di lui aveva l'accento di Xuchao e voltandosi si ritrovò davanti al vecchio giardiniere. Amico mio, fece Talento coraggioso, commosso dal sorriso del servo, i cui occhi scintillavano di devozione per il figlio tornato e il padre scomparso. I due uomini si inchinarono formalmente. Oh, padrone, siete stato lontano per troppo, troppo tempo. Vederti è come essere a casa. Insieme fecero il resto del viaggio in Yulo, su per il fiume, fino a Xuchao, 60 miglia, 3 giorni e 3 notti. Ogni giorno Talento Coraggioso sedeva sul ponte, cullato dai tonfi del remo a coda di pesce a poppa e ascoltando appena il vecchio giardiniere che parlava dell'imminente cerimonia. All'uomo che era stato via, la vita lungo i meandri del fiume sembrava di spiegarsi immutata come una interminabile pergamena. Bufali con gli occhi bendati facevano girare le ruote idrauliche e uomini manovravano con lunghi pali zattere di bambù su cui erano appollaiati cormorani neri al guinzaglio che frugavano le acque scure alla ricerca di pesci da far cadere nelle ceste dei padroni. A prua delle case galleggianti che si stringevano alle rive, camicie e calzoni di un blu stinto svolazzavano al vento d'estate. Che portavano al viaggiatore, ora deboli, ora più insistenti, le grida dei bambini e l'odore familiare del pesce fritto. Il ritmo delle zappe dei contadini nei campi era più antico del dolce dondolio dello Yulo sull'acqua e laddove il fiume creava mulinelli intorno a una roccia o due, le donne si accovacciavano, chiacchierando, sbattendo la biancheria sui sassi e spennando polli. All'orizzonte si estendevano le risaie del Jiangsu, color giada e smeraldo, spruzzate di anatre bianche come neve. Quando sul finir del giorno fili dorati di luce si intrecciavano fra gli alberi, schiere di storni correvano ad appollaiarsi sui pali e sul filo del telegrafo. Erano soltanto queste le novità, insieme al fatto che lui, lo studente, fosse ora il patriarca. Suo padre aveva detto che persino nel ritrovarsi vi è una separazione. Era il primo pomeriggio di un giorno di mercato quando lo Yulo, dopo molte manovre, riuscì a infilarsi in un posto di ancoraggio alla porta nord-orientale di Xuchao. Nella piazza un centinaio di contadini abbronzati stavano accanto a ceste enormi, reclamizzando a gran voce i loro prodotti. Un centinaio di venditori ambulanti con la merce in mostra su stuoie di paglia erano non meno rumorosi. Gli acquirenti, sia quelli a torso nudo, sia quelli in vesti ricamate d'oro, discutevano sul prezzo. Accanto al monumento della casta vedova Kung, un musicista cieco stava all'ombra dell'arco di pietra, strimpellando, soffiando e tamburellando sul suo strumento. Investito dai suoni e dagli odori della folla turbolenta, Talento Coraggioso aspettava impaziente che il vecchio giardiniere saldasse il conto col barcaiolo. Quante volte era passato di lì senza notare i parassiti e i rifiuti e quel chiasso infernale. I mercati non sono cambiati, pensò. Lo erano però i suoi occhi e le sue orecchie. Pesche dolci come il nettare dell'immortalità, pesche! Orecchie di nuvola, occhi di drago, boccioli di giglio, radici di loto che delizieranno persino le più alte sfere del cielo, sete dal telaio della Vergine Tessitrice, che piaceranno anche a vostra suocera. Anatroccoli, ossa scelte dalle tavole delle migliori famiglie della città. Strinse più forte la valigia che aveva voluto portare con sé e avanzò cauto fra due gruppi di uomini annoiati, uno intento a osservare il barbiere al lavoro e l'altro lo scrivano. In quello spazio limitato si scosse la polvere di dosso e stava cominciando a respirare un po' meglio quando, da dietro, lo colse una puzza così repellente da nausearlo. Coprendosi il naso si girò di scatto. Un misero mendicante avanzava furtivo verso di lui. Barbiere, scrivano e spettatori si sparpagliarono al suo avvicinarsi. Talento coraggioso si frugò subito in tasca alla ricerca di una moneta, ma non ne aveva. Cosa mai stava facendo il vecchio giardiniere? Non aveva un solo cash con cui tenere alla larga quel mucchio di escrementi e di stracci diretto verso di lui. Ma improvvisamente il mendicante si arrestò e ritirò la mano immonda che aveva proteso. Per un lungo momento l'uomo lo fissò, gli occhi acquosi, vuoti e duri come le orbite di pietra dei guardiani delle tombe. Poi sputò per terra e si trascinò via, lasciandosi cadere accanto a un facchino che stava mangiando rumorosamente la sua zuppa da una ciotola accanto ai gradini del canale. Onorevole signore, dammi un boccone, soltanto un boccone. Vattene, vattene. Il mendicante gli si avvicinò zoppicando: per piacere, sono digiuno da giorni. Sparisci, mi fai passare l'appetito. Il facchino abbassò la ciotola per cacciare il miserabile. Era proprio l'occasione che il mendicante aspettava. Rapido come il fulmine sputò nella zuppa, poi alzò la testa e sorrise in faccia alla sua vittima. Il facchino saltò su, lentamente, con disprezzo, versò il suo pasto per terra e se ne andò a testa alta. Talento coraggioso lo vide sparire fra la folla. Un vero cinese, ammirevole, pensò. Si è limitato a buttar via la zuppa. In Occidente solo il sangue avrebbe saldato il conto. Ridendo, il mendicante afferrò i pezzetti di verdure e di carne rimasti per terra e se li ficcò in bocca. Poi fissò di nuovo Talento coraggioso con una faccia più inespressiva della pietra. I minuti passavano. Il mendicante non faceva alcuna mossa né per andarsene né per avvicinarsi. Talento coraggioso si sentiva sempre più a disagio, perché doveva tollerare di essere squadrato a quel modo. Guardò verso lo Iulò per capire cosa trattenesse il giardiniere, ma il vecchio già si dirigeva verso di lui accelerando il passo. Padrone, è tutto a posto. I vostri bauli ci seguiranno su un carro dopo che avranno scaricato le merci. Possiamo procedere direttamente verso le portantine. Aprendogli la strada, il servo fece più volte cortesi cenni col capo mentre passavano in mezzo alla folla. Onorevoli cittadini, per favore, fate posto. Man mano che passavano, la gente si zittiva con lo stesso sguardo fisso del mendicante. Talento coraggioso si guardò la veste. Era come prima. Non indossava scarpe straniere. Che cosa non andava allora? Chiamò il vecchio giardiniere. Sì, padrone. Che c'è di tanto strano in me? Vi prego, padrone, ci stanno guardando. Mi conoscono? No, padrone. E allora che c'è da guardare? Oh, non fateci caso, signore, sono dei fannulloni e dei curiosi. Il vecchio cercava di allontanarli, ma quelli stavano fermi al loro posto. Talento coraggioso si sforzò di salutare con un cenno del capo quelli che ora stavano lungo il percorso verso le portantine. Nessuno rispose. Deciso a non mostrare la sua apprensione, continuò a camminare verso lo stendardo con sopra il cipresso, ignorando gli sguardi che lo seguivano e la folla che si chiudeva alle sue spalle. Non si era mai sentito così offeso, neppure in America era mai stato fissato così. Gli erano forse spuntate piume e scaglie. Sempre più angosciato, quasi spaventato, si domandò che avrebbe fatto questa gente di un simile mostro. Infine raggiunse le portantine. I portatori si inchinarono rispettosamente, poi si raddrizzarono. Nei loro occhi lo stesso vuoto. Che cosa poteva essere? Si voltò di nuovo verso il giardiniere. Non esitare, vecchio mio, ti prego, dimmi, perché mi guardano così? A capochino il vecchio rispose: raramente hanno potuto vedere una persona distinta come voi. I vostri bei lineamenti rivelano la nobiltà e il carattere del vostro clan illustre. Vieni al sodo. Ma le mie parole sono pure come l'acqua della fonte imperiale. Il vostro abito è elegante come quelli che gli eunuchi acquistano per la corte, eppure. Eppure? Il vecchio giardiniere ora sorrideva. È per via dei vostri capelli. Tutti si domandano come mai un onorevole accademico non abbia la coda. I vostri capelli, padrone, sono corti come quelli di un barbaro. Improvvisamente, memore delle buone maniere, il vecchio si nascose la bocca dietro la mano, ma non poté fare a meno di ridacchiare. Talento coraggioso sorrise, avvilito. Ah, dunque era quello. Non si era fatto tagliare i capelli da quando era partito da New Haven, ma anche così non ne aveva abbastanza da farsi una coda. Straniero, lo accusavano gli sguardi. Hai accettato la religione degli stranieri. Si era sforzato tanto di ridiventare cinese, eppure, mentre i suoi capelli crescevano giorno dopo giorno, durante il viaggio non aveva mai pensato di farsi una coda. Ma semmai di farsi tagliare i capelli appena fosse giunto a casa. Padrone, non dovete prendere seriamente queste cose. Era diventato tanto americano da lasciar trapelare le sue emozioni? Si sforzò di ridere, una risata che suonò falsa anche a lui, ma sembrò convincere il vecchio. Amico mio, hanno ragione, i miei capelli sono troppo corti. Arrossendo, il giardiniere l'aiutò a salire sulla portantina e poi si arrampicò sulla sua, e le due portantine partirono lasciandosi dietro la folla. Ahia! Si era dimenticato cosa fosse viaggiare in portantina. Era spiacevole come quella escursione in barca a vela cui era stato invitato l'estate scorsa. Anche ora si sentiva agitare nello stomaco la birra e le uova bollite. Altri 100 anni in America non sarebbero bastati a fargli apprezzare quelle attività estenuanti che i forestieri sembravano amare. Per lui era estremamente incoerente a rischiare il proprio benessere senza alcuno scopo e definendo divertente la cosa. Rise. Forse dopo tutto era ancora cinese. Ma fu soltanto quando le portantine lasciarono le strade principali per inoltrarsi nei vicoli silenziosi fra le mura dei giardini che cominciò a sentirsi in armonia, ripetendo fra sé i nomi degli amici che vivevano dietro gli ingressi intagliati e i muri contro gli spiriti. Gli Yang frequentavano il suo clan da secoli, i Sung erano la famiglia della sua fidanzata scomparsa. Il patriarca dei Tang era stato nello stallo accanto al suo per i 3 giorni e le 3 notti in cui avevano faticato sulla poesia e sul saggio agli esami imperiali. Entrambi avevano superato il primo livello. Improvvisamente la portantina si fermò con un sobbalzo. Di fronte a lui c'era la pagoda d'inchiostro, familiare come i tetti ancestrali sui quali allungava la sua ombra. Presa la valigia, scese, poiché doveva avvicinarsi al suo Lao Chi rispettosamente, a piedi. Camminò lentamente lungo le mura di pietra verso il cancello e i leoni di bronzo che l'avevano protetto fin dagli ultimi anni della dinastia Ming. Ogni cosa era così come l'aveva lasciata il giorno in cui era partito, tranne le banderuole azzurre e bianche che pendevano dal tetto all'entrata per annunciare al mondo che un uomo del clan era morto. Era già a metà strada, quando un vento improvviso agitò le bandiere e gli fece turbinare la polvere negli occhi. Sbattendo le palpebre, esitò. Una figura stava sul cancello. Un uomo vestito non con abiti estivi, ma avvolto in un mantello cremisi ricamato d'oro. Era lo spirito del venerabile vecchio che aspettava suo figlio, guardando da quello stesso posto come tanto tempo prima? Da lontano non riusciva a distinguere i lineamenti e cominciò a correre. Oh padre, non stancarti, tuo figlio è tornato a casa. Ma prima che potesse raggiungerlo, la polvere si levò di nuovo e questa volta, quando aprì gli occhi, le bandiere pendevano flosce. La visione era scomparsa. Un attimo dopo fu al cancello, appoggiò la mano libera sul leone di bronzo per riprendersi. Sembrava vivo al tatto, scaldato com'era dal sole. Il vecchio giardiniere senza fiato gli scivolò accanto silenziosamente e andò avanti. Subito i suoni di gong e tamburi rintronarono nelle orecchie di Talento Coraggioso, annunciando il ritorno del figlio e ricordando la morte del padre. Respirò profondamente. Era a casa.